24 di Giovanni Minoli. Nel Mediterraneo si continua a lavorare, mentre in furia la polemica aperta dal procuratore di Catania sul ruolo di alcune ONG nell'aumento dei flussi della migrazione. Ma tenere alta la tensione soprattutto Angelina Alfano, ministro degli esteri, che sostiene il procuratore di Catania in sintonia con i 5 Stelle e il centrodestra. C'è un procuratore che lancia un allarme ed è vergognoso che il ministro della giustizia Orlando, invece di dargli supporto, lo attacchi. Stanno lucrando su questi disperati. E ormai è chiaro ed evidente che al posto della droga si spacciano uomini. Procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, di fatto ha smentito Zuccaro. Collegamenti tra organizzazioni non governative e scafisti? A noi non risulta. Ecco, dottor Gratteri, ma il rischio di una collusione tra qualche ONG e gli scafisti, secondo lei, c'è? Andare ad inventarsi di sana pianta e cose del genere non è da procuratore Zuccaro. Io conosco il procuratore Zuccaro, è una delle persone più serie che ci sono in magistratura, devo oserei dire un gentiluomo. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Buongiorno a Guido Ruotolo, che per Tiscali.it ha ricostruito i due dossier che inguaiano alcune ONG sul traffico dei migranti. Ruotolo, quello che Gratteri dice di Zuccaro è vero secondo te? Secondo me sì, secondo me dobbiamo solo ringraziare Zuccaro, e lo dico perché se vediamo la realtà con gli occhi dell'ideologia, del pregiudizio, allora si scatena l'inferno contro Zuccaro, colpevole di aver messo il dito nella piaga. Ecco, però ieri. No, ma un feticcio, sì. Perché questo discorso per cui l'ONG sono, come dire. No, però stiamo ai fatti, Ruotolo. No, ascolta, allora. Però ieri in Parlamento Zuccaro è sembrato un po' meno determinato e più sfumato. A te non ha fatto la stessa impressione? No, ha confermato tutto quello che aveva già, perché anche qui Zuccaro parla la prima volta il 22 marzo alla Camera, al Comitato Schengen, e fa un'analisi impietosa della situazione. Esatto. Scoppia il bubbone quando un mese dopo la sua audizione, che è pubblica, gli atti li potete trovare su internet, assolutamente, sul sito della Camera, fa un'intervista alla stampa al collega Fabio Albanese, nella quale intervista ricostruisce i fatti, come dire, i fatti, punto. Senti, si è scatenato. Vabbè, ne abbiamo visti tanti di inferni a orologeria in Italia. Ecco, Ruotolo, l'abbiamo detto, tu però per Tiscali.it hai ricostruito i due dossier che inguaiano alcune ONG sul traffico di migranti. Da dove sei partito? Tanto ai fatti dalla tecnici. Comunicazione. Cioè da una telefonata. Sì, è una Cormed, che è un'alleanza militare europea che nasce e si forma dopo il drammatico naufragio del 2015, aprile 2015, fuori Lampedusa con centinaia di morti, per pattugliare le coste in funzione anti. Va bene, e allora tu racconti. Pattugliatore, io racconto che c'è questo rapporto di questa. Pattugliatore dell'Operazione Sofia. Dell'Operazione Sofia, che capta sul canale libero della navigazione una conversazione tra un membro evidentemente dell'equipaggio di una nave ONG e qualcuno a terra, e che cosa gli dice? Nella sostanza, noi siamo qua, noi stiamo partendo, la risposta. Quindi si tratta di interventi fatte da barche rintracciate direttamente da ONG e non dalla Guardia Costiera, questo è il punto. Esattamente, ma va anche detto e precisato che fare questa affermazione non significa coinvolgere la ONG. No, naturalmente, perché, è ovvio. Perché molte ONG affittano navi e equipaggi. Sì, ecco, però. Allora, però non contento il pattugliatore, vabbè, fammi andare a vedere che storia è fotografa. Esatto, si vede in queste fotografie? Si vede un barchino probabilmente della Guardia Costiera Libica, o con dentro soldi trafficanti su una nave, che stanno accanto al gommone carico di migranti e la nave ONG che sta arrivando, punto. Senti Ruotolo, una conferma dunque di una conversazione che non è stata registrata. Quando non è stata registrata, cosa vuol dire? Se io capto una conversazione in mare, penso che a molti ascoltatori sia capitato, certo, di trovarsi naturalmente in una bar. Quando sentono, non è che tu registri la conversazione. No, certo che no. Hai captato l'equipaggio del pattugliatore, capisce la situazione e va sul posto per vedere ma di che stiamo parlando. Però naturalmente captando la telefonata uno può risalire l'orario, la telefonata, il canale può risalire facilmente alla nave. Esattamente. Penso che sia così. Senti, e quindi nelle foto tu dici si vede uno sbarco di personaggi, diciamo così. Perfetto. Rapporto finisce a Zucchero. Ecco, no, aspetta, andiamo per gradi. Sì. Un altro rapporto militare, sempre sì, di cui parli tu su Triscali. Sì. Ecco, questo altro rapporto militare parla di navi che recuperano motori di gommoni per farne che cosa dopo? Allora, ci sono esempi concreti di testimonianze di video. Per farne che cosa? Presto detto, per riutilizzarli. Vi ricordate le polemiche di 2 anni fa quando si poneva la questione di distruggere il mare ai natanti? Certo. E purtroppo noi non lo possiamo fare perché c'è una legge per la tutela dell'ambiente, una legge ambientalista che vieta, perché naturalmente i natanti sono inquinanti. Certo. E quindi, perché la cosa più facile in questi casi è recuperare naturalmente i migranti e distruggere, infatti invece non è possibile. Non è possibile. Un altro rapporto militare però parla di navi un altro rapporto redatto dai militari insieme a quello di prima. Come finisce questi due rapporti? Insomma, come finiscono sulla scrivania di Zucchero? L'hai capito, lo sai? Questo è il problema. Onestamente. Tu l'hai capito, lo sai? Onestamente no, nel senso che è strano che un rapporto di una struttura di alleanza europea, militare europea, finisca da Zucchero. E lì c'è il mistero. C'è un mistero, nel senso che questa è naturalmente opinabile l'opinione, certo, ma mai come in questi casi servirebbe un vero coordinamento della Procura Nazionale, ecco, trattando di indagini che riguardano organizzazioni di stampo mafioso, perché sono equiparate a tale il traffico, certo, di clandestini. E quindi intanto dovrebbe parlare il procuratore nazionale e non ogni procura, perché le indagini in corso sono tantissime. Ma poi ci arriviamo, infatti poi arriviamo anche ai metodi. Zucchero dice che a partire da settembre-ottobre del 2016 noi abbiamo registrato nel nostri mari un improvviso aumento di unità navali che accompagnano fino alle nostre coste i barconi di migranti. Ecco, con barche rintracciate direttamente dall'ONG e non dalla Guardia Costiera? È così? Sì. Ne abbiamo scritto anche su Tiscali, proprio questo il tema. Perché è un punto importante anche questo. Oggi, sì. Ecco. Allora succede questo, detto molto in sintesi, da gennaio a giugno sono le navi di Frontex, della Capitaneria di Porto Italiana, della Marina Militare Italiana che fanno i recuperi e gran parte delle segnalazioni e degli allarmi arrivano con telefonate satellitari direttamente alla sala operativa romana delle Capitanerie di Porto. E quindi in fondo, e fino a giugno il totale delle telefonate invece arrivate all'ONG del recupero è pari a meno del 5%. Quindi secondo questa accusa le navi dell'ONG sarebbero trasformate. Da giugno in poi succede qualcosa di strano. Che cambia tutto, che cambia trasforma tutto. Queste navi in taxi dei migranti, per dirla un po' sempre. Cioè navi che aiutano, sostituiscono i trafficanti e dei migranti. Insomma, arriviamo al 40% delle operazioni di sbarco. Sì, però salvare in mare chi è in pericolo è una legge del mare, è obbligatorio. Sì, ma a questo punto facciamo direttamente una linea pubblica di traghetti da Zuara o da Tripoli, da Misurata o da Sabrata per le coste italiane, perché però, qual è il problema? Ruotolo, va bene. No, hai ragione, no, ti seguo, ma dico Ruotolo. No, seguimi soltanto su questo. Sì, dimmi. Sui gommoni, che sono questi tubolari, li chiamiamo gommoni, ma sono tubolari con questi motori. Sì. prima venivano messi a bordo 90-95 persone, adesso 170, perché nel momento in cui tu perché sai, tanto devono fare pochi metri, poche miglia, appunto. Senti, nei rapporti vengono fatte le statistiche, ci sono 4 operazioni di recupero di navi dell'ONG che avvengono nelle acque territoriali tra 7 e 11 miglia. Ecco, senti, Ruotolo, però il procuratore di Catania dice però che tutto questo materiale è inservibile ai fini processuali, perché non c'era un'indagine in corso, perché? Io penso perché sono le responsabilità penali sono individuali, intanto. Ma questo dobbiamo sempre dire, nel senso noi facciamo noi facciamo processi. No, non facciamo processi, noi raccontiamo delle cose. I processi vanno fatti nelle aule giudiziarie. Appunto. Noi segnaliamo delle situazioni. Ma perché il procuratore di Catania, invece di aprire e sviluppare le indagini, rivela tutto e nasce una tempesta politica? Perché? Perché lo fa, secondo te? Ci sono indagini in corso, ed è chiaro. Ci sono punti di eccellenza dell'investigazione italiana che sono al lavoro, ed è meglio che meno se ne parla, meglio è. Ma invece il procuratore di Catania ne ha parlato. Torno a ripetere, la cosa singolare dal mio punto di vista è come mai un rapporto di una struttura, naturalmente, di un questo è quello che era a monte a e questo onestamente non lo sappiamo. Non so neppure fare delle ipotesi, onestamente mi fermo a segnalare. Ti fermi qua, vorrei capire anch'io. Ma tu, tu questi dossier come li hai avuti? Non lo so. Come non lo so? Ho un attimo di... un blackout di memoria. Esattamente, appena mi torna la memoria... Me lo dici, mi telefoni. Ma uno su Facebook mi ha chiesto, su Twitter mi ha chiesto, ma ci sono questi rapporti? Io ho detto, certamente, che me ne invento. Senti, ma tu non è che si possono avere, no. Senti, tu parli di droni usati come strumento di raccordo tra le navi. Ma droni di chi? Ma lo dice proprio Zucker in quell'audizione. Ridillo anche tu. Di chi sono adesso, questi droni? Di una società, devo andare un attimo a rivedere. Ah, vabbè, un'altra cosa che hai dimenticato. Vabbè, ok. No, ma veramente, perché quando uno poi si trova di fronte a tutte queste notizie, questi stimoli, poi uno scrive e poi, come dire, c'è un momento, un vuoto di memoria che poi vabbè. Ho difficoltà con l'inglese, quindi d'accordo. Senti, un'ultima cosa, Ruotolo, oggi alle 10 il comitato di presidenza del CSM si riunisce per sciogliere la riserva sul giudizio da dare sul comportamento di Zuccaro. Ecco, che cosa ti aspetti che capiti? Io vorrei che... che cosa ti aspetti? No, quello che vuoi tu non conta. Alla fine niente, non lo possono. Non possono procedere, non c'è... Certamente no. Ma è soltanto un gioco della politica. Cioè, della magistratura. Cioè, ma il problema per la magistratura è capire se lui fa queste dichiarazioni sulla base di un'indagine che sta facendo o se solo ha denunciato un fenomeno. Insomma, l'alternativa poi alla fine sta lì. Anche questo è molto... Io prima sentivo nel servizio di presentazione la procura di Siracusa smentisce Catania. Ma quando mai? Cioè, Siracusa dice quello che risulta a lei, ci mancherebbe altro. Certo. Quindi diciamo che dal CSM praticamente avremo qualche dichiarazione di principio, insomma, è poco più. Io mi auguro, sì. Va bene, grazie. Ma tu su cosa stai facendo ancora? Cosa lavori? Qual è la novità di domani? No, intanto oggi ho fatto un articolo che trovate già adesso su Tiscali.it. Va bene, ok. Figure opache di collegamento tra ONG, addirittura l'UNHCR. Vabbè, qui andremo avanti, ne parleremo. Si è aperta la telenovela. Grazie, Ruotolo. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Madame Le Pen, dice Macron, e la redarguisce ogni volta che la chiama signora. Monsieur Macron, risponde allora lei, volete giocare al professore con l'alunna, sorride sarcastica, ma è un ruolo che non mi appartiene. La sicurezza e il terrorismo rappresentano una problematica assolutamente essenziale ma totalmente assente dal suo progetto. No, questo è assolutamente un dibattito già vecchio, quindi non è pertinente. Subito lei attacca le amicizie di Macron. Siete approssimativa e senza alcuna proposta, replica lui, aggressivo nei toni e nella mimica da subito. Io amo la Francia per com'è, con la sua lingua che lei non vuole difendere, con la sua cultura che non esiste, signor Macron. Ha utilizzato questo suo tempo per la conclusione per dire le menzogne peggiori su quello che è il mio programma e quello che è giusto per il nostro paese. Enzo Moavero Milanesi, buongiorno, professore di diritto dell'Unione Europea, direttore della scuola di diritto della LUIS, ministro per gli affari europei nei governi Monti e Letta. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora, dibattito molto duro ieri sera in Francia. Chi ha picchiato di più secondo lei? È stato un dibattito per certi versi asimmetrico, perché avevamo da una parte il candidato Emmanuel Macron, sì, che gode in questo momento e gode dalla fine del primo turno dei favori dei sondaggi, e dall'altro la candidata, sì, Marine, certo, Le Pen. Ma secondo lei chi ha picchiato di più? Beh, la seconda ha picchiato di più. È meglio? Ha picchiato di più? È meglio? Di dialogo. Ha picchiato di più? È meglio? Meglio dipende da come è stato percepito dal pubblico. No, secondo lei? Secondo lei? Secondo me non necessariamente meglio, perché dal punto di vista dei contenuti indubbiamente Emmanuel Macron è stato più concreto su diversi aspetti che riguardano gli elementi, diciamo, a volte meno esacerbati del dibattito politico, come che però poi sono essenziali per, certo, tutti noi, come l'economia, la sorte, ecco, delle imprese e quant'altro. Professor Moavero, Le Monde titola Macron la fragilità di un favorito. Ha avuto anche lei questa impressione? Ma credo che lì si giochi un po' su una sorta di a priori. Macron è visto ed è un candidato molto giovane, non ha 40 anni, è visto come un candidato prodotto di un'esperienza forse più di preparazione, di studi, di vita professionale. Quindi è un titolo che condivide, la fragilità di un favorito lo condivide. Non condivido che Emmanuel Macron sia un candidato fragile, perché secondo me in Emmanuel Macron noi troviamo quella preparazione al governo che è un elemento essenziale in tempi così complessi, sì, in Francia come altrove. Certo, ma destra e sinistra è una distinzione che dopo questo dibattito ha ancora senso, perché ieri in certi momenti sembrava che si rovesciassero le parti continuamente. Io credo che oramai sia abbastanza superato che la distinzione tradizionale destra e sinistra tenga poco. Non c'è una fluidità prima ancora che nei candidati e nei messaggi nell'elettorato. Ecco, ma qual è la discriminante? Marine Le Pen è portatrice di un messaggio che è molto facile catalogare come messaggio di destra, però riallacciandosi... Beh, però c'ha anche dei grandi temi gollisti, per esempio. Sì, ma difatti la questione è proprio questa. Il partito gollista in Francia viene tradizionalmente definito di centro, di centrodestra. Indubbiamente in Francia la destra è più la destra del Front National, ma Marine Le Pen si è distaccata dal percorso tradizionale del Front National, volgendosi maggiormente verso il centro. Quindi secondo me destra e sinistra non hanno più in Francia, senso, come altrove, hanno sempre meno senso. Senta, comunque la Le Pen ha avuto una battuta felice in un certo senso quando ha detto che la Francia, comunque vadano le cose, sarà governato da una donna, o da me o dalla Merkel, come se Macron vincitore fosse un dipendente della Merkel sostanzialmente. Sì, prendiamola, ecco, come una battuta effetto, forse più che felice, una battuta a effetto. Io credo che presentare le vicende europee come delle vicende governate dalla cancelliera tedesca sia un errore. La Germania è il paese guida, più prospero economicamente, più florido d'Europa, può essere la locomotiva come lo è stato tante volte in passato. Sì, proprio locomotiva, proprio locomotiva e basta mi sembra un po' troppo, perché non è solo locomotiva in questa fase, mi sembra. No, non è locomotiva, intanto non è completamente locomotiva, perché indubbiamente c'è un'Europa molto più sfilacciata nel dopo crisi economica di quanto fosse prima, le diseguaglianze fra gli stati e all'interno degli stati si sono accentuate, però indubbiamente se uno vuol far andare avanti, per rimanere nella metafora del convoglio, il convoglio occorre una locomotiva. Naturalmente. Senta, professor Moavero, il filosofo francese Régis Debray ha detto su Le Monde che queste elezioni sono la testimonianza del declino della civiltà europea. Lei è d'accordo? Non direi. Anche qua credo che si alzino troppo i toni. Dipende anche da cosa noi intendiamo per civiltà europea. Potremmo anche capovolgere il concetto dicendo che l'attenzione con cui anche in altri stati si seguono oramai le elezioni di altri paesi, la Francia ne è un esempio, ma seguiremo anche quelle inglesi e quelle tedesche di settembre, mostra come si stia creando e stia nascendo una coscienza pubblica europea, forse un'opinione pubblica europea si sta affermando. Quindi lei dice, malgrado le intenzioni di, come dire, di disintegrarla, questa Europa oggettivamente diventa un problema per tutti invece. Direi che proprio questo è il punto, cioè paradossalmente il momento in cui noi stiamo, ed è corretto che ciò avvenga in democrazia, mettendo in discussione tutta una serie di fondamenti e di meccanismi dell'Europa perché li riteniamo oggettivamente insoddisfacenti. Ma hanno cambiato sostanzialmente, ecco. Ma se vincesse Le Pen, secondo lei quindi l'Europa non sarebbe la fine dell'Europa? Ne nascerebbe un'altra. Non penso che sarebbe la fine dell'Europa, penso che sarebbe un'Europa diversa, un'Europa più intergovernativa, un'Europa più di rapporti fra stati sovrani, di minor condivisione, ma sarebbe comunque un'Europa che non riesce a mettere in causa l'irreversibilità di tante cose comuni costruite in 60 anni. Tipo l'euro, scusi, mi è scappato un lapsus freudiano. Beh, l'euro può essere messo in discussione perché essendo un accordo monetario, però mettere in discussione l'euro significa mettere in discussione anche la funzionalità del mercato comune europeo, e lì si va al cuore di qualche cosa che credo all'atto pratico e reale sarà molto difficile. Senta, un'ultima domanda, professor Moavero, la ringrazio. Se il risultato, come dicono i sondaggi, è scontato a favore di Macron, c'è una lezione per l'Italia in due parole? Una lezione per l'Italia nella misura in cui mostra come un candidato outsider all'inizio possa poi affermarsi di fronte, diciamo, alle difficoltà degli altri candidati di portare avanti il loro messaggio, e mostrando una preparazione, ecco, una competenza di cui forse oggi l'elettore incomincia a rendersi conto che c'è necessità. Grazie professore. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Secondo te chi ha vinto, Mario? Ha vinto Hillary, no? Ha vinto Hillary? come nelle elezioni americane. Ha vinto Hillary. Va bene, ok. Aspettiamo il voto. Meglio per sapere che no, appunto. Cioè, la previsione non la fai tu, Pietraggio, no. L'hai visto il dibattito? Parafrasando il noto motto, non è che un debutto questo dibattito. Posso far sentire la risposta attraverso un file? Certo. E lei, Michu, che cosa ne pensa? Beh, penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si abita a Nuit che quando si abita a Saint-Denis, eh? Io, per esempio, sono di Saint-Denis e, beh, sono razzista. E voi, invece, vivete in questa casa e non siete razzisti per niente. Francamente, Michu, lei si considera un razzista? Ah, sì, francamente sì. Io con gli stranieri ci vivo insieme, non li posso soffrire. Non fanno niente, sono sporchi, ci fregano le macchine. Gli danno pure le case prima che a noi, guadagnano più di noi con tutti i sussidi che hanno. A scuola i nostri figli non imparano niente perché il 70% è di stranieri che non parlano una parola di francese. Ci rompono con i loro minaccia d'oro e dovremmo pure pagare per costruirgli le moschee. Beh, è tutta un limite. Ma insomma, che ne è del diritto alla diversità, della tolleranza, dell'ideale della Francia terra d'asilo? Boh, io che ne so che ne è. Allora lei vota Le Pen? Ah no, non posso votare, non ho fissa dimora. Forza, quello che lei non capisce è che non sistemerà i suoi problemi personali l'essere razzista. Ah beh sì, ma quello che capisco è che tre quarti del pianeta stanno nella merda. Allora cercano di piazzarsi dove c'è meno merda, cioè qui da noi. E poi una volta qui bisogna che qualcuno si stringe per fargli posto e farli sopravvivere, oh. Vabbè, appunto. Ah sì, ma finora chi si è stretto per fargli posto sono quelli di Saint-Denis, mica quelli di Nuit. Poi quelli di Saint-Denis si devono stringere continuando a sorridere, perché sennò è immorale, vero? Mi dica un po', Michou, non sarà un po' comunista? Ah no, non sono comunista, sennò è da un pezzo che avrei avuto la casa, eppure mio fratello. E allora si sbrighi a prendere la tessera del partito prima che scompaia definitivamente. Vabbè, insomma, abbiamo capito. Non è che un debutto. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Ma questi sono. Abbiamo un ascoltatore che ha beccato Pietrangelo al volo sul file del film. Vuol dire che sono attenti. Sono molto attenti e li ringraziamo. Grazie Roberto. Grazie. Grazie Roberto. Bravo. Dai. Musica. Arriva. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare. E sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire. Allora? E c'era qualcosa che oggi in metropolitana c'erano fari spenti e sottili dispiaceri, e c'era anche il sole e le emozioni. Tutte hanno chiamato le montagne che sono ancora innevate, hanno richiesto questo brano per il grano con una domanda: sei pronto a far correre la dea Core tra le spighe? Senti, l'avevamo già mandato quel file, però è piaciuto a tutte, perché abbiamo una quantità di sms. Infatti per questo lo rimandiamo, perché si spiega benissimo la questione Le Pen. Ci chiedono il titolo del film. La crisi, benissimo. Di quando è la crisi? E della prima, del primo duello con Le Pen padre. Anni 90. Sì, no. Quando già si era capito tutto, appunto, questo dibattito. Non è che è un debutto. Questa sceneggiatura. 2000, questa sceneggiatura è perfetta, effettivamente. Sì. Allora, Mario, vai con la tua bolla. Sì. Del 92, mi dicono dalla regia, la brillantissima Alessandra Zaccato. Fiori avevo mi illumina. Zaccato. Allora. Senti qua. Remember when you were young, you shone like the sun, shine on you crazy diamond. Questa è tutta una versione riarrangiata di Shine on You Crazy Diamond, ovviamente, e Pink Floyd Remix. Molto bello, senti. Sentiamo. Ok, e per introdurre che cosa? E per introdurre ancora la Francia, però ti parlo delle ali degli altri, cioè di Air France KLM. Hanno pubblicato i risultati del primo trimestre di quest'anno, aumentano il numero dei passeggeri. Tutti. 20,9 milioni, niente male, però perdono anche 143 milioni di euro nel trimestre, il che significa che volare non è mai stato così facile e nello stesso tempo non è mai stato così difficile. È così difficile far volare, esatto, non volare. Esatto, perché i passeggeri ci sono. Ieri anche, ma i costi non tornano. I costi non tornano e poi la concorrenza è molto forte. Ora, se un gigante come Air France Voi dovete immaginare che in un trimestre ha trasportato quasi tutti quelli che trasporta in un anno all'Italia, per intenderci, così avete l'idea del raffronto. Ma se Air France ha queste difficoltà, in ogni caso, come si può pensare di, come si può immaginare di salvare Alitalia, renderla profittevole, salvare tutti quei posti di lavoro e così via, dopo che Alitalia imbarca anche quest'anno, anche l'anno scorso imbarcherà, non ha pubblicato, ma sono 600 milioni circa di perdite. Questa è la vera domanda. E bisogna porsi un'altra domanda: cosa succede dei 600 milioni di prestito ponte se Alitalia va comunque a gambe all'aria? Ma mi sembra che il ministro Calenda stia lavorando per Calenda, una certo. sensazione. Ma Calenda fa il suo lavoro, ovviamente, e cerca di farlo al massimo. E quindi apriranno le manifestazioni di interesse. Esatto. Però, sempre per mettere le cose su. È più facile stare sulla riva del fiume e aspettare che la compagnia muoia. Muoia e poi prendere i pezzi migliori anziché comprarla tutta. Il famoso spezzatino. Esatto, si prende. È una storia che poi, molto poi scusami, nella questione delle compagnie aeree, i veri valori, al di là degli aerei, quando non sono in leasing, sono di proprietà, ma sono quasi sempre in leasing, per esempio nel caso di Alitalia, sono che cosa? Le rotte. Sì, ci sono gli slot, le rotte che si vendono, i mobili se ne hanno. Vabbè, ovviamente. Ok, ma diciamo il valore, sì, il valore industriale. Sai, gli aerei sono presi in leasing, quindi sono tutti. Appunto, quello che cioè, la valorizzazione della flotta è sempre molto aleatoria. Molto, molto aleatoria. Insomma. Salamino! Avanti miei prodi! Avanti ai miglior prodi! Tra i prodi. Il nuovo Prodi col P maiuscolo è una prode, Laura Boldrini. E lei infatti... La la la la, tutto bene mi va, ed invece a me no, tutto bene ti andrà. E lei infatti non si sottrae, perché, caro Giovanni, fatto il segretario del PD, ovvero Matteo Renzi, i cui gazebo ancora stamattina sfornano milioni di milioni di milioni di consensi, c'è da fare il leader di tutto il centro-sinistra, come si chiama. E lei, presidenta della Camera, e quindi presidenta della deputata di genere, anche alimentara, femminile singolare, si propone. San Pasquale, San Pasquale, Bailonne, protettore delle donne, però non cerca la presidenta femminile singolare, questo me lo devo segnare per non sbagliare, non cerca la presidenta, ovviamente marito o marita, che dir si voglia, perché lei è già protettora delle donne. Ed entra nel dibattito della sinistra da par suo dopo avere scoperchiata, femminile singolare, il busto di una femminista antelucana e antegenere, e dopo la sobria cerimonia Montecitoria, femminile singolare, concede un'intervista al Corriere della Sera e presenta se stessa, caro Giovanni, presenta se stessa come il nuovo Prodi, anzi. Beh, non so, non gli ha chiesto a Prodi, gli ha detto. Sì. Beh, lei si è prodata da sé, lei è proda femminile singolare ed è singolare che il Corriere della Sera ci creda, ma insomma questo passa il convento, o meglio, la conventa femminile singolare ancora una volta, non avendo più la sponda di Nichi Vendola, che è ancora in congedo di paternità, la presidenta della Camera s'appoggia al cosiddetto campo progressista di Giuliano Pisapio, maschile singolare, e farne, grazie al suo contributo, un soggetto, unito come era l'ulivo, giusto a scongiurare un centro-sinistra alternativo fuori dal Partito Democratico. Il partito, va da sé, maschile singolare, sempre più diventato PDR, cioè partito di Renzi, insofferente già all'idea di fare alleanze con Massimo D'Alema e tutti gli altri scissionisti, ed è PQM per questi motivi che la prode Boldrini tra i prodi diventa la nuova Prodi. Più leader di lei femminile singolare non ce n'è. Sarebbe fantastico lei candidata del centro-sinistra, sarebbe una meraviglia. Ecco, però, e ha già presentato un programma. Ti seguo. No, è perfetta lei. Sarebbe una meraviglia. Ma lei, leader del centro-sinistra, lei che proprio raduna tutti, lei è la nuova Prodi. La Boldrini ce l'ha presente? Ma che stai a dire? Ma sì, lei. Ma non legge. Abbiamo perso il filo. Scusa, Pietrangelo. Lei si è presentata come la nuova Prodi perché giustamente ha fatto un ragionamento. Il PDR, partito di Renzi, non vuole l'alleanza con D'Alema e con gli altri scissionisti. Va bene, questo l'abbiamo detto. PQM, per questi motivi, lei che è fantastica, è meravigliosa, è bravissima e fa più di San Pasquale Bailonne. Che cosa fa? Ha presentato il suo programma, che è un piattoformo singolare maschile, perché oltre al lavoro, perché porterà al lavoro, oltre all'Europa, perché porterà all'Europa, oltre all'ambiente, perché porterà un bell'ambiente, ha due questioni ineludibili. Sono le questioni di genere e le questioni sociali. Cioè, siamo alle solite, pieni di diritti civili, scarsi di garanzie sociali, per cui Mario, se vuoi, ci sposiamo noi due e non cerchiamo più il lavoro. Ho sempre pensato di farlo. E perché io il governo sarebbe bellino, fantastico, inutile. Accurziamo! Altro che nuovo Prodi con la Prodi e Boldrini. Secondo me, tra San Pasquale, chi la salva? La salva Sant'Eusebio. Viva Sant'Eusebio, salvatore. Dimmi. Scusa, la proposta di matrimonio è valida. Riprendiamoci, vai. Perché abbiamo i diritti civili. Vabbè, no, non ricominciamo. Ma ci dobbiamo sposare io e buttafuoco. No, perché se la Boldrini candidata è meravigliosa. Ti prego, per favore. È bellissimo. Vediamo Mario, cosa porti Mario, in dote. Mario, ti prego. No, io ho un po' di musichetta. Vieni, credi. Di il titolo della tua musica. With no regret, do what you did wrong. Should I stay and fight? Beh, questo è un pezzaccio di Lenny Kravitz, si chiama December. Perché i nostri ascoltatori vogliono i titoli delle vostre colonne sonore. Bisogna fare la playlist nostra, hanno ragione. E forse sono solo 3 anni che lo diciamo. Sì. Vai bene, vai. No, 5. No, io volevo dare una al notizia. Mio consorte Buttafuoco a questo punto una notizia che gli creerà un po' di dispiacere, ma gliela devo dare. Sono usciti i risultati. Nelle coppie, sono usciti i risultati ufficiali delle primarie del PD, caro Pietrangelo. Renzi ha preso, risultati ufficiali, il 69,2% dei voti, Orlando il 20%, Emiliano il 10,9%. Hanno lavorato fino a tarda notte, non ha fatto normale. Il 70 per un, se pensi in America quando ci hanno messo all'epoca di Bush per dare i voti della California, no, della California, della Florida era dove il governatore era il fratello. Sì. Vabbè, non parliamo, momenti epici, bellissimi. Vabbè. Ma Giovanni, ma a questo punto ti faccio una domanda di quelle delle 100 pistole. Sì. Risultato ufficiale, Renzi ha vinto, cosa succede secondo te? Dove? Nel PD. Niente. Nel PD comincia l'operazione sostegno, come ci ha spiegato Anzaldi bene ieri, l'operazione pungolamento. Sì, è vecidiale. Vedi che qualcosa succede. L'operazione pungolamento è che se... Sì, per ora c'è la novità Boldrini. Se il presidente si farà pungolare, tutto andrà bene. Quindi? Ci sarà qualche resistenza nella punture Si vedrà. Se partirà l'accordo per la legge elettorale. Canzoniere! Nel cielo le nubi raffigurano la tua immagine. Il maestrale soffiando porta via le mie parole. Tu ne avverti il senso ed è verso te che volano. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, pubblicità. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Mix 24. Rumore assordante, nello stesso tempo un odore intenso di terra. Feci per girarmi e non vidi più casa mia, ma vidi una grossa onda nera. Poi fui inghiottito da questa, da questo fiume di fango. Roberto Robustelli aveva 23 anni quando fu sommerso dal fango dell'alluvione di Sarno il 5 maggio del 1998. Rimase seppellito per 76 ore, 3 giorni e 3 notti passati sotto le macerie, fino a quando a salvarlo arriva un vigile del fuoco. Io pensavo che ero rimasto solo io sulla terra, perché poi stando chiuso, poi iniziai a sentire dei rumori e capii che era un elicottero. Allora a quel punto iniziai a urlare. Roberto è uno dei superstiti di quella tragedia che colpì Bracigliano, Quindi, Cisiano, San Felice a Cancello e Sarno. Sotto accusa il dissesto idrogeologico della zona, una cieca politica del territorio, la deforestazione delle montagne e la mancata manutenzione del territorio. Tutti elementi che, combinati a una pioggia ininterrotta e fuori dal comune, provocano l'alluvione di Sarno, una catastrofe in cui, nonostante il coraggio dei soccorritori, perdono la vita 160 persone, 137 nella sola Sarno. Beh, a 19 anni da quei giorni, dopo il giornale radio raccontiamo dell'alluvione di Sarno, Pietrangelo deve andare, però non so come fai a vivere, che adesso si è bloccato WhatsApp, tu vivi connesso, che fai? Sei morto? No, non è più bloccato. Adesso è libero. Non è più bloccato. No, fu stanotte. Ah, fu stanotte, quindi beh, tutto bene adesso. Tutto il mondo è nel panico. Vabbè, allora vai pure, se WhatsApp funziona. L'unico problema che è successo stanotte, l'unico problema è che mio figlio aveva mandato un sacco di messaggi che sono arrivati improvvisamente svegliati. Vabbè, fammi ancora il canzoniere, rifallo, perché non hanno indovinato, è difficile. Continuiamo a fargli domande, così non se ne va. Vado? Vai. Nel cielo le nubi raffigurano la tua immagine, il maestrale soffiando porta via le mie parole, tu ne avverti il senso ed è verso te che volano. Aiutino? Avanti, va, è francese. Quindi, poeta francese. In giornata, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, c'è ancora una bolla, Mario. Io c'ho una cosa che bisogna dire. Allora, domenica si vota in Francia, sceglieranno il presidente. Chiunque sia il prossimo fantastico sorvegliato speciale d'Europa è l'Italia. Guardate con attenzione cosa succede nei mercati, nonostante il dibattito di ieri, diciamo, abbia detto che comunque Macron è stato più bravo, almeno ufficialmente, e così via. Il nostro spread oggi continua ad essere alto, il rialzo a 193 punti, se guardiamo le dinamiche degli ultimi giorni sono tutte là che dimostrano una tensione, e secondo me noi saremo poi alla fine quelli che in qualche maniera mettono in difficoltà, ecco, l'Unione. Senti, ma la borsa in Francia come ha reagito alle elezioni? Bene. Cioè, danno Macron per vincitore? No, pensano tutti che Macron vinca, hanno anche ragione dal punto di vista, diciamo, dei numeri. Secondo me sarà molto più combattuta di quanto probabilmente ci si immagina, perché noi dobbiamo ricordarci che i candidati non parlano a quelli che piacciono, come suol dirsi. I candidati parlano ai propri elettori, alla gente, così via. È un altro film, un altro gioco, un altro meccanismo. E adesso quello che dicevo, ha vinto Hillary. Come sempre, certo, lei ha vinto sempre peccato poi che non se ne sono accorti. Esatto. Senti, adesso, come sempre, il professor Roberto Bernabei commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal of American Academy of Dermatology, dicembre 2016. Antibiotici ed altre opzioni per l'acne. L'acne, soprattutto l'acne giovanile, è un problema che cruccia molti dei nostri giovani, principalmente le ragazze, ma non solo, ed è curabile con un'associazione di farmaci. E le linee guida raccomandano l'uso certamente di antibiotici per i pazienti con acne per un periodo dai 3 ai 6 mesi. Quanto i pazienti seguono queste linee guida? Sono stati studiati un numero significativo di medici di famiglia inglesi e si è visto che c'era una durata media di trattamento con antibiotici di 175 giorni. Quindi i 6 mesi erano sufficientemente rispettati, con un 30% che curava oltre i 6 mesi e addirittura un 12% dei medici che curava per oltre un anno. Ma il dato importante, per il riaccennavo all'inizio che per la terapia dell'acne ci deve essere una terapia combinata, che il 62% dei medici inglesi, quindi una grande parte, non associava alla terapia antibiotica una concomitante terapia con retinoidi, che è il golden standard per uccidere l'acne. Allora si raccomandano gli autori, e giro la raccomandazione a voi che eventualmente avete un parente, un amico, un figlio o una figlia con l'acne, di associare sempre le due terapie, tranne nelle donne in gravidanza ovviamente, per utilizzare gli antibiotici il meno possibile ed evitare la resistenza antibatterica che sempre più sta prendendo piede nei confronti degli antibiotici, e anche contenere i costi. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ha scelto? Oggi una canzone per chi si isola giorno dopo giorno e lotta con la sola arma del modem. Levante, non me ne frega niente. Sogno.